con Ariele Vincenti, coautore e attore dello spettacolo Cose Popolari. A Roma, al Teatro Ghione, dal 4 al 14 ottobre. Ariele, ben trovato. Ciao, ciao Federico, grazie per avermi ospitato in questa intervista, grazie mille. Allora, avevamo già ospitato sia te che questo lavoro al radioteatro. Per chi non lo conoscesse, descrivicelo. Sì, questo è uno spettacolo che portiamo in giro da 3 anni e parla di una coppia che in poche parole occupa una casa popolare e poi si va a scontrare con tutta la burocrazia e un po' personaggi loschi, insomma, che circondano purtroppo questo mondo, che è un po' anche dove circolano i soldi, insomma, ci sono sempre personaggi loschi. E all'interno dello spettacolo c'è un altro personaggio che è Mario, che è il loro vicino di casa, un sessantenne, un po' il matto del quartiere, no? Che però in realtà ci riserverà tante sorprese anche poetiche. E insieme a Mario c'è un altro personaggio che è Stefano, che è fratello della mia fidanzata e che comunque in qualche modo ci aiuterà, insomma, in tutto e per tutto. Anche lui all'inizio è un po' restio nell'occupazione e nell'andare a occupare, che poi la prima scena andiamo in lui a occupare di notte e cerchiamo di aprire la porta con una lastra, no? E poi invece lui appoggerà la nostra causa e piano piano sarà sempre di più dalla nostra parte. No, questo per dire il fatto della lastra, perché è uno spettacolo, appunto, parla delle case popolari, ma parla di mille altre cose, di profumi, respiri, suoni, di periferia, di Roma, condito da una grande ironia e comicità che è poi tipica, no, del romano vero. Infatti questo è uno spettacolo che a noi piace definire vero, reale. Non è la solita commedia in cui c'è un uso strumentale del dialetto romano che viene spesso un po' scimmiottato, no? Per noi è molto importante lo spettacolo, la nostra prerogativa è stata quella di trattare il dialetto romano come se fosse Shakespeare, quindi rispettando gli accenti, i suoni, soprattutto l'ironia e i valori sani, casareggi, semplici, insomma, che sono poi valori poi anche nostri, ecco. Ariele, com'era nato tutto? Allora, è nato da un'idea mia di Francesco Stella, che è un attore che interpreta Francesco, e che appunto ci siamo confrontati, che volevamo fare un lavoro insieme, abbiamo detto: senti, ma perché non scriviamo qualcosa sulle case popolari? E abbiamo scritto una prima stesura del testo. Ci siamo rivolti a Nicola Pistoia, che è, insomma, attore un giovane attore di 64 anni, al quale è piaciuto molto il progetto, ha cominciato a lavorare anche lui sul testo e insieme abbiamo inserito poi questo personaggio Mario, che insomma se l'è un po' cucito addosso, perché Nicola Pistoia fa la regia e recita anche nello spettacolo. E poi abbiamo un'attrice che si chiama Giordana Morandini, che fa la mia compagna, e è nato a Carrozzerie Notte, quindi in un posto molto off, diciamo. E poi piano piano invece sta avendo vita, avremo fatto una cinquantina di repliche, insomma, comprese quelle del Ghione, e siamo molto contenti. L'abbiamo fatto anche in Trentino. Allora, quando tu vai in Trentino e fai uno spettacolo così vero, anche simpatico, comico, romano, loro ti vedono come un alieno, no? No, insomma, è andata molto bene, si divertivano molto anche il Trentino, quindi figurati a Roma. E poi l'ultima cosa che volevo dire, Federico, che noi sono un po' di anni che stiamo intraprendendo, insomma, questi, come tu ben sai, no? Spettacoli, appunto, che parlano dei tempi di oggi, che sono una fotografia della nostra società. E la cosa bella è che vengono tanti giovani, che insomma, si divertono, si commuovono insieme a noi, e questa è insomma la soddisfazione più grande, a prescindere da tutto, insomma, cercare di avvicinare i giovani facendo dei spettacoli veri, che senza fronzoli, diciamo, senza strizzare l'occhio al pubblico, ecco, cerchiamo sempre di condividere con il pubblico e non prenderlo in giro, tra virgolette, ecco. E quindi questa è una cosa molto, molto bella che ci gratifica molto. Di questo spettacolo poi ci saranno, non so, pensavo ci saranno sviluppi, lo renderete anche in immagini cinematografiche. Che idea avete? Allora, guarda, Fede, so che in settimana viene un mio amico che è un autore di blog, e farà uno speciale domenica 14 sull'emergenza abitativa. e mettere anche l'immagine dello spettacolo ad oggi. Poi magari succede, speriamo di no, però insomma ecco, fino a ieri mi ha confermato questa cosa e quindi lui vorrebbe questa commissione sarà immagini vere delle persone che sono trovate coinvolte nello popolare, eccetera, con lo spettacolo. Sì. C'era stato un progetto di fare un film a low budget, però per noi anche low budget è troppo budget. Sì, Dovremmo sì, sì. trovare qualcuno di nuovo, insomma, perché si sta molto la storia, anche lo spettacolo in cui siamo, sembra proprio un film, che poi secondo me sono un po' le regole del teatro moderno, no? Cercare di dare una verità estrema. Sì. Ora Ariele, con là. l'ora e 20 anche i tempi sono abbastanza stretti, quindi è tutto di un fiato, un atto unico. E vi aspettiamo, insomma, il ghione. Chi vuole venire, per me è un grande piacere. Poi tu c'hai il numero di telefono. Sì, per chi volesse avere maggiori informazioni rispetto al ghione, il numero è 0663722294. In chiusura, Ariele, volevo chiederti anche la tua in questa stagione, dove ti vedremo anche? Allora, io adesso sto facendo un progetto folle insieme a dei detenuti a Pescara e ho fatto un adattamento di un libro che ha scritto un detenuto e quindi farò la regia con questi detenuti anche però ci sarà poi un nome importante adesso per Scaramanciere è già diciamo fatta con lui però non si sa mai, non vorrei Certo, intimorirlo. certo. Ci sarà un documentario, insomma, uno spettacolo che faremo il 30 novembre e il 1 dicembre all'interno del carcere di Pescara. E anche qui noi raccontiamo in questo spettacolo un po' la verità, cioè tratto da un libro in cui un detenuto racconta tutta la sua epopea criminale e noi l'abbiamo rimessa in scena con loro. Io reciterò e farò anche la regia. E avremo questo cameo di questo attore importante, che però appunto preferisco non dire il nome in questo momento. Poi riprendo Le Marocchinate, che è un testo che ho scritto con Simone Cristicchi, che parla delle violenze che fecero i soldati marocchini in Ciociaria durante la guerra, un po' l'altra faccia della liberazione. Sì. E lo farò un po' in giro per l'Italia. Il 25 aprile arrivo a Roma, alla Sala Umberto, una data secca. E poi c'ho anche un'altra cosa con lo stabile d'Abruzzo, insomma, abbiamo vari progetti che vanno avanti. Avremo modo di riparlarne a novembre, magari. Ricordiamo allora l'appuntamento con Cose Popolari, spettacolo in scena a Roma, al Teatro Ghione dal 4 al 14 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al coautore, attore Ariele Vincenti. Ariele, un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Viva il lupo, grazie di cuore Federico, un abbraccio anche a te, buon lavoro. Ciao. Ciao, ciao.